perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccoci, le 9-7 minuti, bisogna subito dare notizia, quasi come breaking news, di un fatto increscioso avvenuto nella redazione romana di Radio 24, dove Veronica Gentili ha appena pugnalato alla testa. Sono stata presa da un raptus, io non lo volevo fare. Alessandro Chiappini, potete vedere tutto sul mio account Twitter, c'è proprio un pugnale da parte a parte nella testa di Alessandro Chiappini. Sono circondata di immagini piene di sangue il giorno di Halloween, e allora mi sono fatta a prendere la mano, Alessandro! No, è tutto uno scherzo, ovviamente, ma anche per chi vuole su Twitter, magari la pubblichiamo anche su Facebook. Però non è uno scherzo che io condurrò tutta la puntata con lui davanti così, ve lo dico. Ha un coltello piantato, un finto coltello piantato nel cranio. Finto, no, hai fatto bene a dirlo, perché sennò... No, ho specificato, perché poi conoscendo il mio temperamento qualcuno potrebbe anche crederci, non con Chiappini, semmai, insomma. No. Diciamo. Allora, salutiamo un po' di persone, devo salutare un po' di persone. Paolo Corleoni in regia questa settimana, insieme a Elisa Pancaldi, a Lorenzo Nespoli in redazione. Oggi abbiamo acquistato anche Alessandro Marcotulli, perché questa settimana abbiamo mandato in ferie Elisabetta Fusconi e c'è Alessandro Chiappini lì, e quindi insomma, ecco, siamo tutti qui, i funamboli sono ci riuniti. Siamo tutti, ci siamo riuniti per il giorno di Halloween, no? Esatto, le 9 minuti. Oh ragazzi, oggi vogliamo partire e vogliamo convocare gli ascoltatori su questo tema. Siamo il paese dei furbi, furbetti, furbettini, e chi meglio di noi lo può scoprire? Noi facciamo la rubrica in cui defurbizziamo i nostri ascoltatori, no? Questa per noi è la nostra specifica, no? Sì. Questo ormai ci stiamo specializzando nel settore. Nel senso, quindi... che vabbè, facciamo raccontare delle furbate di qualche anno fa e poi in maniera simpatica defurbizziamo gli ascoltatori. Lo so che soffri un pochino di complesso, perché vedi che la politica è sempre più avanti rispetto a te, che i nostri furbetti non sono all'altezza. Esatto. No, è che il tema che vogliamo affrontare in realtà è molto serio. Sapete che c'è l'ex capo di gabinetto del Appendino, sindaco di Torino, che si è dovuto dimettere perché, secondo intercettazioni, pare brigasse per far togliere la multa a un amico. Sì, abbia telefonato. Tra l'altro, appunto, sono anche i termini della telefonata, che come sempre uno dice: ma piacciono meno, sai, ti chiamavo per una cosa molto più prosaica. Con il capo dell'azienda trasporti. Sì, e parlando dei controllori, ha detto: sono tanto bravi, però sono un po' troppo, come dire, troppo quadrati. Che no, un classico, classico modo di esprimersi un po' all'italiana. Detto questo, il quesito è: per una multa, cioè per chiedere di togliere una multa di un amico che stava prendendo l'autobus senza biglietto o non ha fatto in tempo a timbrare il biglietto, come dice lui, è giusto dimettersi? È uno di quei casi in cui è una cosa strumentale, non di un rilievo particolare, per cui c'è stato un accanimento, oppure in questi casi è giusto, perché altrimenti diventa un modello, un esempio? I nostri ascoltatori che pensano? 800 24 00 24. C'è da dire che è vero, molti italiani, e noi lo raccontiamo, ma anche se non lo raccontassimo si sa, se possono fare un saltare la coda, diciamo così, o farsi fare un favorino, ecco, non lo considero una cosa gravissima. In realtà, quando è un ruolo pubblico, probabilmente, anzi sicuramente, le cose cambiano, però si rimane italiani anche in un ruolo pubblico. No, al ruolo pubblico si viene inchiodati perché teoricamente dovrebbe essere un esempio per gli altri. Esatto. E quindi si suppone che si debba avere una condotta impeccabile, però poi come viene percepito dall'opinione pubblica, che nel nostro paese tende così ad assorbirle con facilità queste cose, vogliamo dire così? Diciamo di sì, le assorbiamo tutti con facilità. Vogliamo dire che se non hai fatto almeno una furbata nella vita in Italia tendi ad essere un po' uno sfigato, anzi quasi dicono dai, come sei ligio, facciamo passare un bel massaggio. Ma è un bel messaggio di questo tipo, ma magari fossimo tutti svizzeri. Magari fossimo svizzeri in questo. Comunque 800 24 00 24, partiamo da qui. Il caso di Torino lo affrontiamo con i primi due funamboli che sono in onda con noi. Allora, intanto noi vogliamo cambiare un po' la prospettiva e andare in Germania, dove troviamo con affetto e con amicizia nuovamente Roberto Giardina, corrispondente a Berlino per il Quotidiano Nazionale, scrive anche per Italia Oggi, ma insomma è una voce che spesso sentiamo per raccontare cosa succede a quelle parti. Roberto, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Perché la Germania, vabbè, calvinista, forse un altro tipo di cultura. Io ricordo per esempio che c'è un ministro della difesa che si è dimesso, ha dovuto praticamente interrompere la carriera per una tesi forse mezza copiata o scopiazzata. No, ma no? Lì sembra una specie di epidemia delle tesi di laurea scopiazzate. Vabbè. Roberto, io ho letto di una quantità di casi che dice se è il principale scandalo tedesco in assoluto, tre ministri soltanto nell'era Merkel. Ma in tutto Merkel. Il mondo è così, vabbè, no, comunque. È una roba Certamente, per esempio, l'ex ministra Annette Chavan, che era ministro della pubblica istruzione e della cultura, che è stata sorpresa di aver copiato la tesi di laurea in tempi in cui non c'era internet e quindi era più facile copiare, e adesso si è dimessa subito e adesso fa l'ambasciatrice presso la Santa Sede a Roma. Cioè la Merkel, che è la sua amica personale, l'ha perdonata. Ah beh, però non è una carriera stroncata, sì. Allora. La carriera non è stroncata, sì. Però. Beh, diciamo che ha pagato un dazio importante. Ma come politica, come carriera politica, sì, diciamo, non è andata a spasso, ma insomma la sua carriera è finita come ministro. Che succederebbe se ci fosse qualcuno a brigare a togliere una multa in Germania? Qualcuno ovviamente che ha una posizione di livello. Ma questo a me ufficialmente non è mai avvenuto, nessuno ci... Ma non è che i tedeschi siano correttissimi e incorruttibili, cioè se vengono scoperti pagano pegno, quindi stanno molto più attenti, questo è tutto. Io mi ricordo soltanto il caso di un poliziotto, i vigili urbani non esistono in Germania, che ha fermato Beckenbauer sull'autostrada, forse andava troppo veloce, l'ha perdonato, ha chiuso un occhio e poi è stato punito il vigile, insomma. Beckenbauer, lo diciamo, Veronica Gentili, che non sa nulla di calcio, grandissimo ex calciatore della Germania, nonché presidente adesso della gente del Bayern Monaco. Sì, su Beckenbauer. Su Beckenbauer. Non ho detto una parola, ho diciamo detto come speriamo. Fosse, non lo so, Dino Zoff, Paolo Rossi. Sì, ecco, li conosci in Italia, non sì, che loro si Paolo facciano... Rossi il comico? Vabbè, no. Sì. Abbiamo capito. Roberto, no, quindi in Germania c'è una cultura, si può dire, rigorista. Più che altro la gente sta più attenta perché sa che se sbaglia così paga davvero, no, paga dazio. C'è una tendenza però similare all'Italia, perché leggevo che appunto questa ministra, due anni prima, quando era successo invece a Gutenberg, che era un altro ministro e si era dovuto dimettere, era stata una delle principali accusatrici. Che scandalo, che cosa vergognosa, e poi a sua volta è stata beccata, non so se c'è Gutenberg, che poi era considerato il delfino della Merkel, il ministro della difesa, non era un ministro, diciamo, di seconda fascia. E anche lui cosa ha fatto, sempre per la tesi? Sempre quello. Ma lui la tesi l'aveva copiata veramente, cioè non è che forse l'aveva copiata e naturalmente non è stupido, è molto intelligente, e poi diciamo la tesi non era la tesi di laurea, la tesi di dottorato di ricerca quasi, infatti si fa molto più tardi, dopo i 30 anni, perché veramente deve essere un lavoro di ricerca originale, deve essere pubblicato. Naturalmente questo, i tedeschi ci tengono molto a doctor, e quindi è un ruolo che merita. Dottorato. No, devo dire, molti ascoltatori già ci scrivono, ma insomma, per una multa, allora cosa succederebbe se ci fosse qualcosa di più grave? C'è chi propende a dire, ma insomma, una multa, c'è chi invece dice no, se hai un ruolo pubblico, anche l'idea di una multa, che dice? Ma a parte i plagi, per esempio, secondo la legge tedesca, un funzionario pubblico non può ricevere regali superiori ai 20 euro, 30 euro, adesso non ricordo bene, questo vale per il postino, a cui io posso regalare una bottiglia di vino, ma non una cassetta di vino a Natale, e vale anche per i ministri che sono considerati funzionari pubblici. Perché altrimenti lì scatta una sorta di corruzione, concussione, qualcosa del genere, no? Sì, il primo ministro, qui chiamiamo governatore della Bassa Sassonia, per il suo quarto matrimonio diede una piccola festa e accettò il regalo dai birrai, fabbricanti di birra della sua regione, un paio di barilotti. la Bild Zeitung lo scoprì, lo pubblicò, lui 24 ore dopo si dimise ed è finito, non se ne parla più. Una sorta di censura sociale c'è, però allora intanto continua ad arrivare messaggi, c'è chi ci dice anche ma vergognatevi voi, è gravissimo, il moralizzatore arriva sempre, quello che lui nella vita ha fatto tutto perfetto, io non giustifico niente e nessuno. Però siamo qui a discutere, il moralizzatore. Più che altro noi non abbiamo espresso la nostra opinione, eravamo curiosi di conoscere quella del paese. Esatto. Che a volte chiaramente, anche giustamente, pretende dai politici una condotta diversa da quella che hanno i cittadini. Perché i cittadini molto spesso, io vorrei vedere le persone nel momento in cui hanno la possibilità di farsi togliere una multa, vorrei vedere tutti coloro che additano. Se sarebbero disposti a tirarsi infatti, guarda, indietro. Io dico, Veronica, in realtà vado oltre, dico io vorrei dai cittadini lo stesso comportamento dai politici, che poi sono cittadini. Sarebbe un circolo virtuosissimo. Prima di essere politici sono cittadini, e che non è che devono cambiare, nel senso che si possono far togliere la multa fino al giorno in cui diventano politici e poi no. Per me dovrebbe essere normale non farlo. Però c'è un ospite che ci sta ascoltando. Lui forse di questo brodo di coltura della furberia, del lassismo, del dire ma sì, cosa volete che sia, poi si è giocato anche una carriera, perché Andrea Franzoso, che è un ex funzionario delle Ferrovie Nord Milano, che con le sue denunce ha fatto scattare un'inchiesta molto importante, poi ha scritto un libro dal titolo Il disobbediente e ha raccontato come ha pagato sulla propria pelle. Franzoso, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Ci sente? Sì, la sento. Voi? Sì, benissimo. Sì, sì. Lei è un whistleblower Franzoso, come si usa dire. Soffiatore di fischietto. Esatto, in italiano così si traduce. Cioè coloro che soffiano il fischietto quando qualcosa non va, quando ci sono delle anomalie. Per segnalare il gioco sporco? Sì. Che ne pensa dell'idea o del fatto che in Italia c'è una sorta di permissivismo per queste piccole che poi possono diventare grandi rotture della legalità? Sì, c'è un certo lassismo che è tipico nel nostro paese, molto diffuso. Spesso appunto noi come cittadini pretendiamo che la politica abbia dei comportamenti corretti che appunto spesso non ha, ma noi come cittadini siamo i primi a chiudere un occhio quando appunto chiediamo al politico di toglierci una multa e così via. E la cosa più fastidiosa in tutto questo è che poi ci giustifichiamo. La stessa cosa l'ho trovata anche nelle parole dell'ex capo di gabinetto dell'Appendino, perché la cosa più fastidiosa non è tanto che ci abbia provato, ma è la frase che ho letto sui giornali quando ha detto: per carità, appunto, i controllori sono tanto bravi, però sono un po' quadrati. Beh, questo l'ha detto, sì, l'ha detto nella telefonata. Questa, per era, sì, questa era un'intercettazione. Sì, un'intercettazione, certo. Ma anche il discorso di dire: però è una mentalità, ha ragione. Stava per timbrare il biglietto, il controllore l'ha fermato. Giustificare in qualche modo il... Ma sì, che poi nessuno era su quel pullman. Può appunto anche essere successo che il controllore sia stato davvero talmente ligio per cui uno stava per timbrare e il controllore l'ha beccato. Ma voglio dire, paga, cioè nel senso, oppure fai ricorso a, non so, a chi deve bisogna far ricorso, al magistrato, a dire voglio contestare questa multa, ma non far ricorso all'amicizia dell'amico con il capo della possiamo dire azienda. Alessandro, che quello che può colpire un po' è lo scarto, la discrasia che c'è tra situazioni come queste, in cui per carità è giusto dimettersi, e delle situazioni molto più estreme che vediamo in politica, e nelle quali non vediamo accadere nulla e le dimissioni non vengono nemmeno nominate. Questa è una cosa che notano anche molti ascoltatori. Franzoso, lei per esempio ha denunciato dei reati molto gravi, non si parla di multe, per carità, non vogliamo fare una classifica, però no. Sì, peculato, truffa aggravata, certamente gli importi erano molto più alti, si parla di mezzo milione di euro. E i colleghi dicevano bravo, pacche sulle spalle e poi? E poi il problema è sempre quello, è la convenienza, che penso sia un po' la parola chiave, anche in questo caso di Torino. Conviene segnalare, conviene denunciare, a rischio magari della mia carriera, conviene mostrare solidarietà a chi ha denunciato quando mi accorgo che è finito in un binario morto, conviene dire di no a una persona che mi chiama per togliere la multa a rischio di risultare antipatico o magari di perdere il suo voto. È quello il problema, che spesso guardiamo se una cosa nella scelta di una, nel prendere decisione, pensiamo più alla nostra convenienza che a ciò che è corretto. Ma lei ha pagato dazio molto fortemente per aver fatto queste denunce, certo. Allora, non è stato ha perso il lavoro, quindi non ne ha avuto veramente nessun riscontro in positivo, cioè ne ha avuto soltanto lati negativi ci sono stati dopo questa scelta. Da parte dell'azienda sì, c'è stata assunta, certo. Cioè, siamo arrivati ad una risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, non c'erano più le condizioni per stare lì, quindi ovviamente ho pagato un prezzo. E molte persone appunto che sapevano, che erano conniventi, sono ancora lì. L'ex direttore amministrativo che autorizzava le spese del presidente lavora ancora per l'azienda, non è che è stato licenziato, cioè anche l'ex presidente Norberto Achille di Ferrovie Nord non è che rubava di nascosto, chiedeva rimborsi e sulla carta dei sulla tavolo dei contabili o del direttore amministrativo si vedeva benissimo che chiedeva rimborsi per toilettatura del cane, per scarpe, per viaggi o argenteria o altri prodotti. Però il tema è questo, cioè che lei di fatto ha dovuto perdere il posto di lavoro. Guardate che ci sono tantissimi ascoltatori che ci chiamano all'800 24 00 24. Sentiamo. Oltretutto volevo dire, Alessandro, che c'è una legge su questo whistleblowing, anche se ancora purtroppo non è stata approvata, e questa è una delle cose che andrebbe vista e capita. C'è Cosimo da Brindisi, buongiorno. Buongiorno Funamboli, mi sentite? Benissimo. Sì, sì. Buongiorno, allora io prendo mutuo quello che ha detto sia Alessandro e sia Veronica. Allora, c'è una grossa discrasia fra questo che si dimette per una multa e il politico che si è mangiata l'Italia e che ha avuto quello che ha avuto magari a sua insaputa e sta ancora lì e che occupa il suo posto. Cioè, ma stiamo scherzando? A sua insaputa, cioè a mia insaputa mi regalano una cosa, io non lo so e sto ancora lì a fare il governante. Cioè, allora sì, cristiani, li mettiamo alla gogna e poi da dietro, cioè, che ne so, gli diamo tante sculacciate, li spelliamo vivi. Però Cosimo, qual è il grado di valutazione? Qual è il grado di valutazione? Cioè la magistratura, un'inchiesta, una condanna? Un attimo. Intanto, no, perché lei dice qualcuno che ha mangiato, ma come lo giudica lei uno che ha mangiato sull'Italia? Quello che ha mangiato e poi è quello che è stato condannato dalla magistratura. Ah, vabbè, per corruzione, ma è una condanna. No, per corruzione, concussione, eccetera, eccetera. Poi il garantismo dice che dobbiamo andare fino in Cassazione, nel frattempo c'è la prescrizione e tutti rimangono tutto finisce a tare luce e vino. Intanto chi ha avuto la multa doveva andare a fare ricorso al giudice di pace così come è previsto dalla legge, primo. Sì. Seconda cosa, mi sembra che quel signore non sia nemmeno iscritto ai 5 Stelle. Infatti è il capo di gabinetto del sindaco. È il capo di gabinetto non è... che non è iscritto al 5 Stelle. No, infatti, ma non ne mettiamo dal punto di vista politico. Anzi, c'è da aggiungere che per i 5 Stelle, proprio perché loro in qualche modo sono sempre stati molto attenti a una questione di integrità comportamentale, la parola detto, onestà, hanno detto per carità dimettiti immediatamente. Ma poi non la volevamo mettere sul punto di vista politico in questo caso. Comunque Cosimo, la ringraziamo per il suo intervento. C'è Mario da Firenze, buongiorno Mario. Sì, buongiorno Milan, sono contento di parlare con voi. Sì. Volevo solo raccontare la mia esperienza, piccola esperienza. Come ho detto appunto al suo redattore, tanti anni fa ho preso una multa, come capita, avevo l'amico assessore al traffico e ho chiesto di togliermela e lui me l'ha fatta togliere. Come? Ma lei lo dice con questo candore, scusi. Si è confuso, Mario, lei ci deve chiamare tra un'ora per deformizzarsi. Noi ridiamo, Mario, però ma come ha chiamato l'amico assessore se l'è fatta togliere? Ma l'assessore di Firenze? Diciamo della provincia di Firenze. Mi sono autodefurbizzato. È andato a pagarla dopo? No. Molti anni dopo, questo mio amico è diventato sindaco. Io ho continuato a prendere multe, però mi sono vergognato di andare a chiedere questo. Per carità, sono imbarazzo. No, Mario ce lo racconta così adesso, non vogliamo che arrivi una clava su Mario da parte di Andrea Franzoso, però che ne pensa del commento di questo ascoltatore che dice con maniera candida, insomma, me lo sono fatto togliere da un amico assessore la multa, Franzoso? Beh, è un comportamento diffuso, ma una cosa che volevo così osservare è anche un altro, visto che poi si parla di un'azienda, la GTT, che non naviga in buone acque a Torino. No, l'azienda dei trasporti torinese. Dei trasporti torinese. C'è un tema che magari in questo momento non viene toccato, è quello delle aziende pubbliche che poi sono occupate dalla politica, con manager d'area e che ovviamente dipendono dalla politica, non possono dire di no. Ma infatti lei prima ha colto un punto fondamentale, cioè quello che viene investito del problema, che si trova in una posizione apicale e che dipende dalla politica, che fa? Gliela tolgo la multa, non gliela tolgo. Gli conviene non toglierla, mi conviene assecondarlo. Più che c'è un credito che l'azienda vanta nei confronti del Comune di Torino e ci sono delle decisioni da prendere, è ovvio, quando ci sono questi legami, questi interessi così legati, è difficile dire un no. È difficile. Anche perché diventa una sorta di pressione psicologica, per cui c'è anche il rischio di poterne pagare dazio in altro modo se si dice di no. Allora, noi dobbiamo dire una cosa, torniamo per un attimo da Giardina, per precisazione. Noi abbiamo contattato sia Paolo Giordana, non ci ha risposto, non ha risposto ai messaggi, non ha risposto alle telefonate. Abbiamo contattato l'amministrazione di Torino, il portavoce del sindaco, che ha detto nessuno interverrà su questo tema. Abbiamo contattato anche l'azienda, la GTT, ha detto non interveniamo su questa vicenda. Questo lo diciamo per completezza di informazione, nel senso che abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo chiesto anche ai protagonisti. Giardina, a leggere e a sentire anche in Italia come gli ascoltatori, che effetto ti fa? Tu che dici sempre, guardate che non è che la Germania sia il luogo della perfezione, il luogo... No? Anche per sfatare il luogo comune, che uno mette piede in Germania improvvisamente, no? Questo no. No, per esempio oggi a Berlino in media ci sono 150 persone in galera perché non hanno pagato il biglietto sulla metropolitana. Ma come in galera? Ma come in galera? Perché in galera. Adesso bisogna spiegare. Cioè la multa intanto credo che sia inferiore a quella di Torino, credo che sia 50 euro. Sì. Però alla terza volta che uno viene beccato diventa un reato. E quindi viene Quanto ti fai? No, si fa in base al proprio reddito. Se io vengo condannato a 300 euro di multa, se io guadagno 100 euro al giorno, mi faccio 3 giorni di galera. Oppure vado in galera. Decido io, cioè non è che uno va in galera. Ma ci sono in questo momento persone in galera perché per 3 volte sono state beccate senza biglietto. Ma la ratio dietro a questo principio qual è? Che se io posso permettermi di pagare, vado in galera di più? No, ecco, questa è una cosa che gli italiani non capiscono bene. È chiaro che, per esempio, c'è un giocatore del Dortmund, credo che sia Royce. Sempre calcio. Grazie Roberto, abbiate pazienza. Che ha fatto? A guidare senza patente e quindi è stato condannato a un mese di carcere. A un mese di carcere oppure a un mese del suo stipendio. E ha pagato 525.000 euro di multa. No, però la domanda Veronica è interessante, cioè fai più galera se hai più reddito o ne fai meno? Questo è il principio. No, cioè. La fai la stessa, fai sempre cioè, paghi di non più. Paghi di più, ecco. Sì, cioè, per evitare la galera paghi il tuo stipendio. Quindi paghi uno stipendio nel caso del giocatore che non mi azzarderò a ripetere, paghi delle cifre esorbitanti, mentre se fossi stato magari un operaio. Certo. Io paghi 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, il tuo stipendio mensile. Questo è interessante. È interessante, è molto interessante, ma lo trovo anche giusto. Cioè, se vuoi evitare la galera, paghi in proporzione a quanto guadagni. Se guadagni tanto, paghi tanto. Se guadagni è una sorta di patrimoniale sulla furbizia. Allora, se sono milionario, parcheggio sempre di vito di sosta, perché tanto per me una lo posso pagare, che mi importa. Sì, a me certo. Quello che colpisce è che uno con 3 biglietti non pagati debba finire in galera, ecco questo, oppure pagare una sanzione. Comunque noi vi dobbiamo molto ringraziare, c'è da dire che arrivano anche messaggi di grande apprezzamento per Franzoso, di persone che dicono anche che stanno leggendo il libro, che io ricordo Il Disobbediente, se lo volete leggere. Andrea Franzoso, grazie, così come Roberto Giardina da Berlino. Cara Veronica, qui chiamano in tantissimi, sentiamo per esempio Elio da Napoli, buongiorno. Poi noi guardate che continueremo su un tema affine subito dopo la pubblicità, però non anticipiamo. Elio. Sì, io vivo in una città bellissima dove purtroppo l'irregolarità, il non rispetto delle leggi è un costume, quindi sono per l'inflessibilità. Il sacchetto messo a terra e non nel cassonetto, la multa non pagata... la macchina lasciata in doppia fila, la mancia data a un dipendente, a un usciere per poter saltare una fila, è un costume di tutti i giorni. La persona corretta per bene subisce questo proprio costantemente. Essere indulgenti significa favorire la corruzione. Bene, sì. Va bene, Elio, direi che è un'analisi perfetta. È una reazione forte da napoletano insofferente verso... Certo. Ci sono molti napoletani che sono stufi dell'andamento di questa città. Ma io sono sicuro che sono anche la maggioranza, però purtroppo a volte è la maggioranza silenziosa in questo caso. Poi si diventa vittime del luogo comune, per cui quello che abbiamo detto più volte, su Napoli ci sono tutta una serie di stereotipi anche molto, secondo me, raccontati molto più di quanto sia la realtà. In ogni caso, noi dopo la pubblicità avremo ospite un dirigente comunale a Ercolano. C'è stata una polemica perché per la visita del ministro Boschi le strade sono state pulite. Da qui soltanto apre Piceno, in un quartiere, esatto. Tipo 4-5 vie che erano quelle accanto all'albergo della ministra, che poi sì, però non è andata. Esatto, polemiche che sono finite sui giornali. Avremo il dirigente ospite Olimpio Di Martino che ci racconterà come è nata questo provvedimento che ha preso e sarà con noi, sarà il prossimo funambolo dopo la pubblicità. I funamboli. Ricopre un ruolo pubblico e quindi sì, si deve dimettere e dovrebbero seguirlo anche gli altri. Noi comunque siamo sempre più avanti di tutti. Cioè in Germania si dimettono per le tesi di laurea accoppiate. Cioè noi la metà dei ministri non l'ha nemmeno mai fatta una tesi di laurea. Incredibile, veramente. Ma lo sapete quanti italiani laureati hanno copiato la tesi da un copia e incolla? Sono pochissimi, ma veramente una percentuale bassissima. Chi scrive di suo pugno dall'A alla Z la tesi? Ma infatti, cari ascoltatori, io, ecco, Veronica, non è... Cioè, capisco un po' la distinzione pubblico-privato, la capisco, perché il pubblico, il bene pubblico, eccetera. Non è che sono proprio nato ieri, delle basi di diritto le ho anch'io. Però dovrebbe essere... Cioè, non è che siccome uno diventa un dirigente pubblico diventa onesto in quel momento, mentre prima poteva farsi togliere la multa da privato cittadino. Su questo sono d'accordo. Su. Anche se sul politico, proprio politico nello specifico, secondo me è un po' diverso. Anche la Costituzione lo sancisce, no? Che ci sia un vincolo di disciplina e onore nei confronti del paese. Sì. Quindi secondo me è ancora un po' diverso. Ma d'accordo. Ma uno, dal punto di vista sulla carta, posso capire. Ma secondo te, uno... E stiamo parlando di nessuno in questo momento, uno a caso, una persona a caso. Se fino a ieri si faceva togliere tutte le multe da privato, poi diventa con un ruolo pubblico, perde di colpo questo vizio? Ma no, infatti, io non ci credo. No, ma è un problema culturale. Allora, lo puoi perdere perché pensi di essere già un privilegiato, perché ti è stata data la possibilità di fare un mestiere, che è il mestiere della politica. E quindi teoricamente dici: vabbè, ho ottenuto una cosa, anche facendo proprio i conti della serva cosiddetti, dici: ok, ho ottenuto la possibilità di fare questo mestiere, se non altro evito di farmi togliere le multe. Ma invece raddoppi, perché dice: sono in una posizione in cui lo posso fare e nessuno mi dice niente. Ma se ce l'hai nell'indole. Io dico come dovrebbe essere, che nella realtà dei fatti questa accada, certo, l'abbiamo visto susseguirsi in questa legislatura, abbiamo visto accadere la qualunque dimissioni di ministri celebri. Per esempio mi tornava in mente Roberto Formigoni. Sì. Per fare un nome, no, come esempio pratico, lampante, contrapposto al capo di gabinetto dell'Appendino. Formigoni è uno che è stato già condannato a più e più gradi, adesso c'ha nuovamente non un altro progetto. No, non in via definitiva, è stato condannato al secondo grado per ricorso in Cassazione per il primo processo, adesso siamo al secondo processo di nuovo per tangenti nella sanità pubblica, eppure non mi sembra che questo abbia intaccato le sue vicende politiche. Ma lui dice, vedremo il giudizio. Allora, il discorso è, non si possono fare due pesi e due misure, perché se si fanno due pesi e due misure si comincia a dire, è lì che nasce il discorso, allora quando è che devo veramente intervenire e quando no? Forse sono più gravi delle tangenti per la sanità pubblica che non una multa per il controllore. Bisogna provarla in terzo grado. Comunque, allora, noi abbiamo chiamato un dirigente che ringraziamo molto per essere qui, perché ci sono state delle polemiche ad Ercolano. Il dirigente di Ercolano, dirigente comunale del decoro urbano, è Olimpio Di Martino. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei, ringrazio io Radio 24 per darmi la possibilità di fare un po' di chiarezza. Di fare un po' di chiarezza. Perché cosa si è detto sui giornali? Arriva il ministro Boschi e lei ha dato una disposizione di pulire bene tutte le strade, togliere le affissioni dei funerali. Cosa ha fatto? Sì. Allora, guardi, io sono un dipendente dell'amministrazione del comune di Ercolano da oltre 35 anni, per cui di amministrazioni ne ho viste passare. E il mio compito è quello di servire l'ente in funzione degli atti di indirizzo dell'amministrazione. Sì. Ritornando quindi su quello che è stato il provvedimento che ha suscitato tante polemiche, preciso una cosa, che questo tipo di disposizioni di servizio è una normale prassi che l'ufficio fa in, in occasione di eventi, di manifestazioni, di riti religiosi. E quindi non è, non è stato fatto per la Boschi, diciamo, non è stata un'attenzione fatta esclusivamente per la presenza della Boschi, ma è una prassi che facciamo in diverse occasioni. Ma allora, sono delle pulizie localizzate? Allora, sì, sono delle pulizie localizzate in funzione di dove si svolge di un evento. Allora, la prima cosa che tengo a precisare, perché è stato sottolineato la rimozione dei manifesti funebri. Questo già ad agosto del 2017, su indirizzo dell'amministrazione, essendo anche il dirigente al decoro urbano, ho disposto la rimozione dei manifesti, ma di quelli abusivi, non di quelli regolarmente affissi negli impianti pubblicitari istituzionali. Sa cosa, dottor Di Martino, che forse la gente è rimasta un po' colpita perché dice dovrebbero essere tolti sempre i manifesti abusivi funerari, no? Assolutamente sempre. Sì. Cioè non solo quando arriva un'autorità qualsiasi, lasciamo stare. Perfetto. Allora, assolutamente sì, tanto è vero che ho fatto anche una diffida alle onoranze funebri di non attaccare questi manifesti in maniera selvaggia. Sì. Quindi c'è anche una disposizione in tal senso. Ora cioè, però ritornando alla ritualità, alla sì, del ritualità di quest'ordine di servizio. Anche in occasione della festa patronale del 15 agosto, in occasione di eventi sportivi, quando c'è stato l'inizio del campionato, si fa questo tipo di provvedimenti. Della notte bianca, I cittadini invece vorrebbero le strade pulite sempre, comunque, al di là degli assolutamente eventi. Sì. Più che altro è questo che fa scattare la polemica, non tanto il fatto che lei ha chiarito bene, non ha niente a che fare col ministro Boschi nello specifico, per cui per l'arrivo di lei, ma è una prassi che si ha sempre in occasione di eventi. Però il fatto è che diventi una tantum in occasione di eventi, appunto. Allora, in occasione di eventi particolari, io credo che come qualsiasi padrone di casa, come qualsiasi ospite, cerca di fare la propria casa, la propria città più accogliente. Che sfido chiunque a smentire che se deve ricevere un ospite cerca di rendere la propria casa quanto più accogliente, quanto più bella possibile. Quindi lei non ha capito la protesta, c'è stata gente che ha messo cumuli di rifiuti a dire togliete anche questi, li ha capito. Ma quello che pretendono i cittadini è una cosa sacrosanta, che il paese debba essere pulito, ma per fare ciò c'è bisogno di collaborazione da parte degli stessi cittadini. Questo certo. Oh, cari cittadini. Su questo perché? Alessandro è d'accordissimo. Sì, ma su questo sì, io dico sempre che una città è sporca perché se c'è una cartaccia per terra, non è che uno dice pago le tasse, quindi butto la carta, passi lo spazzino. No, sì, più civile. No. Allora, posso, diciamo, volevo continuare, se è data possibilità. Prego, prego. Ci dica. Quella della presenza dei rifiuti lungo le strade, che per i quali i cittadini hanno ben donde di essere diciamo esigenti, ci vuole la reciproca collaborazione, ovvero che l'ufficio deve vigilare sulle attività del servizio di igiene urbana, ma anche i cittadini devono collaborare conferendo i rifiuti in funzione del sindacato. Ma questo l'abbiamo detto, dottor Di Martino, l'abbiamo detto. Però, insomma, la questione chiara è che lei ci ha chiarito questa cosa. Però ha detto che un pochino capisce la rabbia dei cittadini che hanno messo dei rifiuti, la protesta, no? Allora, se lei sta, diciamo, si sta riferendo a quella che poi è stata la protesta... Sì, che ha messo i rifiuti per le strade, dice pulite anche questi adesso, visto che no, l'hanno fatto in maniera un po' polemica. Siamo importanti anche noi, non soltanto l'evento, questo dovrebbe essere un po' il senso, no? Assolutamente sì. Ma io ribadisco il concetto, sono in, su questa cosa io ho fatto varie relazioni anche alle forze dell'ordine della presenza di rifiuti conferiti in giorni in cui non dovevano essere conferiti. Per cui quindi ho una serie di relazioni a partire da aprile di quest'anno, ne ho circa 4-5, dove in alcuni punti in maniera sistematica della città i rifiuti vengono conferiti a qualsiasi ora del giorno. E quindi queste sono le violazioni, no, perché dobbiamo andare al traffico, dottor Di Martino. No, ma queste sono le violazioni che i cittadini fanno. Però guardi, lei ci ha spiegato bene la sua posizione che ha creato polemiche, ma insomma noi andiamo sempre al cuore delle vicende con i protagonisti e ce l'ha raccontata. Noi chiudiamo proponendo un evento in ogni via di Ercolano. Tutti i giorni. Evento al giorno toglie il manifesto di torno. Sì, ci permetta questa ironia. Come ci dice l'ascoltatore, andiamo al traffico così deitalianizziamoci e tedeschizziamoci, sì, io dico anche svizzeriamoci. C'è chi propone di farci invadere dalla Germania, eh? No, invadere no però... potremmo chiederlo a Torre, perché se ci facciamo invadere dalla Germania poi però siamo noi che dobbiamo ridichiarargli guerra, poi voglio vedere. Ti ha colpito Stefano Torre, andiamo al traffico. Me lo porto con me ormai. Traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta i funamboli. Siamo qui con il nostro Leonardo Manera, noto sporcatore di strade pubbliche. È il mio divertimento, è il mio hobby. Cosa posso fare d'altro nella vita? Vado in giro e butto cartacce per strada, materassi dal balcone. No. Questo è un bel hobby, eh? Sì, certo. Poi vedo che viene la Netezza Urbana a ritirarli, con gli altri condomini che si lamentano. Insomma, ho trovato un modo di vivacizzare così la mia vita. Oltre che sulle scale mobili. Ma fa stare bene buttare i materassi? Perché noi abbiamo qui uno psicologo che viene ogni tanto a trovarci, che suggerisce di fare delle cose, tra cui forse buttare i materassi dalla finestra. Verrà a trovarci oggi alla fine della puntata. No! Sì. Ma vedi? Io sulle scale mobili invece oggi mi sono spaventato, non sulle scale mobili ma in metropolitana, perché sono sceso l'uscita giusta senza neanche guardare. Vuol dire che mi sono normalizzato, non faccio più proteste, tengo la destra, scendo la fermata giusta senza guardare, ecco, sono normalizzato e questa cosa un po' mi amareggia. Cioè hai deciso di accettare supinamente le regole che ti propone il vivere civile per la strada? Accetto tutto supinamente. Te l'ho servita, eh? Sì, perché tutto sta cambiando tutto, anche la Lega Nord, avete visto? Sì, che non si chiamerà più Lega Nord alle prossime elezioni, ma si chiamerà semplicemente Lega, giusto? Lega. Giusto. Con l'obiettivo abbastanza chiaro di prendere voti anche al Sud, che è un po' come dire: noi della Lega non pensiamo più solo al Nord, ma al bene di tutta Italia. Quindi viva Napoli, Catanzaro, Mazzara del Vallo. Io immagino l'espressione disperata di un elettore del Varesotto, di Caronno, Pertusella, quando vede la nuova Lega cercare consensi e andare a braccetto anche con gli elettori di Roccella Ionica. Ma così è. Se la Lega ex Nord vuole essere partito di grande consenso nazionale, deve cercare consenso anche al Sud e diventare una specie di Lega italiana. E probabilmente quando in Italia ci saranno più extracomunitari con la cittadinanza italiana, dovrà cercare consenso anche tra i cittadini di origine extracomunitaria, diventando magari la Lega afro-italiana. Per ora però è necessario trovare nuovi simboli che possano esprimere al meglio la nuova Lega. Lega che adesso vuole rappresentare tutto lo stivale, quindi già da tempo niente più acqua del Po, essendo il Po un fiume tipicamente del Nord. Come simbolo la nuova Lega italiana potrà utilizzare un'acqua che arriva da una sorgente umbra, né troppo a nord né troppo a sud, e che quindi esprime al meglio la nuova Lega italiana. In più quell'acqua della sorgente umbra, quanto ci ripetono da anni, fa anche fare tanta plin plin, e sappiamo che fare tanta plin plin è il vero segreto di bellezza e d'ora in avanti anche del consenso. Qual è il segreto del consenso elettorale? È fare tanta plin plin, diranno i nuovi leghisti. Basta con i protoleghisti e con l'acqua del Po. Quindi nuovo testimone della nuova Lega italiana potrebbe essere Elisa Isoardi, sicuramente bella donna, che quindi sicuramente fa tanta plin plin, ex partecipante a Miss Italia e non a Miss Padania, e che è anche moglie in pectore di Matteo Salvini. Matteo Salvini che, se dovesse infine giungere a giuste nozze con la bella e brava Elisa, non sceglierà più una basilica del Nord probabilmente mal vista dagli ipotetici elettori del Sud, ma una chiesa panitalica e amata da tutto lo stivale, magari a San Giovanni Rotondo, dove sicuramente convergeranno anche le telecamere di Barbara D'Urso, entertainer spargi lacrime ugualmente amata tanto al Nord quanto al Sud. verrà probabilmente abolita e abrasa in futuro anche l'icona di Alberto Giussano, preferendo per la nuova Lega Nazionale Italo Popolare un personaggio più amato da tutti gli italiani. Albano. Sarà Albano il nuovo testimonial della nuova Lega Italiana. Albano al posto di Alberto Giussano. Albano che tra l'altro potrà anche essere utilizzato come ministro degli esteri vista la sua familiarità con il pericoloso Kim Jong-un e potendo avere al suo fianco sia la poliglotta romina per le missioni internazionali che la più casereccia Lecciso per i comizi familiari. Resta un'ultima cosa da definire. Le ruspe. Le ruspe sono un simbolo troppo violento per l'elettore medio, moderato, italiano che si spaventa sempre un po' di fronte a immagine violenta. Quindi sì agli sgombri dei campi rom, ma non con le ruspe, al massimo con paletta e secchiello, che si potrebbero poi eventualmente utilizzare anche per andare al mare in un bel villaggio turistico italiano formato famiglia. Non so perché, ma ho sempre l'impressione che tutti i partiti prima o poi cerchino di inseguire la vecchia democrazia cristiana, che però forse non se ne sono accorti, ormai è morto da tanto, tanto, tanto tempo. Ma invece io giusto qualche tempo fa pensavo che la Democrazia Cristiana lotta e vive insieme a noi, cioè, è pieno di politici democratici. Di politici che vogliono rifare lo scudo crociato. Ma no, ma proprio no, non, ma cioè, si che sono anche litigati il simbolo. Ma sì, ma nell'animo, dico, nel modo di non essere, di essere di qui e di là, di essere. Infatti è morto il partito. Concavi e convessi, così. Questo cioè, nell'accezione più spregiativa della ma Democrazia Cristiana. No, dai. Di non decidere mai una cosa, insomma, il ma anche di Veltroni. Che cos'è in fondo? Che cos'è? È il manca di Veltroni, il democristianismo che c'è. È una tutti rivisitazione noi. Della Democrazia Cristiana a sinistra. Si, chissà cosa ne pensa Lorenzo da Milano. No, che ha chiamato su tutt'altro, ma volevamo... era un momentaccio per chiamare Lorenzo. Adesso ti tocca fare una tesi sulla Democrazia Cristiana. Il cerchio bottismo della Democrazia Cristiana dal 1970 a oggi. Lorenzo, che cosa ne pensi? Ma no, sorvoliamo, dai. Andiamo al motivo originario della telefonata. Milano, no, il problema è questo. A parte che lascia una mare in bocca quando parla... traccia questi racconti. Manera. Mi dispiace Manera, lasciare l'amaro in bocca. Amaro comunque. In bocca, perché veramente dice delle verità che sono però molto tristi. Amare. Poi. No, amare, tristi amare, no, amare, meglio amare. Amaro Manero, potrebbe essere amaro il nome. Manera. Mi dia un Manera. Oggi entro in un bar e dico mi dia un Manera. Guarda grazie, che suona bene, a dirlo così suona bene. È uno scioglilingua. Vabbè, Lorenzo. Ascolti Milan. No, il problema è questo, che secondo me questi burocrati, quindi non parliamo di politica, questi burocrati si sentono talmente forti che si spendono per 90 euro, cioè veramente di una bassezza tale che dico... Ma forti, cioè, no. Si è dimesso in due giorni però, così sì, forti... No, voglio dire, ma sono dei burocrati che veramente non hanno... si sentono forti, poi alla fine è stato costretto, perché se avesse usato un po' di intelligenza per 90 euro, quindi la furbizia in Italia vale molto di più dell'intelligenza, ecco. Fermo restando che in questo caso è stato fregato. Sì. Questo secondo me è un punto molto interessante che lei sta sollevando, perché c'è chi sostiene che proprio perché sono cose molto piccole si deprezza ulteriormente il valore della figura politica, perché si fa anche per delle cose irrisorie. Infatti, proprio il senso di non voler tirare fuori di tasca propria neanche gli spiccioli. Lo dicevamo ieri, sono quelli che telefonano l'assessore per chiedere di togliere. Un ascoltatore ce l'ha detto candidamente. Sì, comunque Lorenzo da Milano, la ringraziamo, continuate a chiamarci su questo tema, l'Italia dei furbetti. 800 24 00 24, finisce la prima ora dei funamboli, ma torniamo subito dopo il giornale radio, state con noi. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto siamo bombardati da informazioni, internet, i social, la TV, le chat, senza contare i vecchi bar e il passaparola. Per fortuna ci siamo noi, siamo qua apposta a metà giornata per rimettere ordine nelle notizie e per raccontarvi, col Giro d'Italia, piccole e grandi storie del nostro paese. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutti i giorni alle 13 con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I funamboli. Pagnù, però non è che per una multa mo' bisogna licenziarsi dal posto di lavoro. Cioè, le mi fatte tutte, Roxanne. l'abbiamo fatto tutti, questo, se ho capito bene, è il senso del solito nostro discorso, amico, la cosa che diciamo sempre noi italiani, no? È sempre l'assolvimento generale, ci si autoassolve, dice, lo fanno anche gli altri. Eh sì. Questo è uno dei problemi sostanziali. Purtroppo lo fanno tutti, e quindi perché io non dovrei farlo? Questa è la domanda. È il tema che ci portiamo avanti dall'inizio della trasmissione, 10-8 minuti. C'è anche Antonio da Napoli. Antonio, che ci vuole dire? Ci ha chiamato, Sì, volevo raccontare un episodio per dimostrare come ogni mondo è paese. Qualche anno fa andammo a Londra, stavamo in divieto di sosta, e una poliziotta ci mise la multa. Era una poliziotta carina, cominciamo a corteggiarla, alla fine la poliziotta prese la multa, la strappò e ce la ridiede e disse: questa è un souvenir che vi portate a Napoli. Quindi volevo dire che queste cose succedono anche ma anche voi l'avete all'estero. Corteggiata per farvi levare la multa, o è perché chiaro, era carina? No, per farci solo per quello. Per farci togliere la multa. Però ce l'hanno fatta, quindi voglio dire, non è che... Venendo però alle cose italiane, insomma, cioè io vorrei dire, di per sé il fatto successo a Torino dei 5 Stelle non è una cosa che io reputo gravissima. E il problema è che loro si mostrano, cioè dicono di essere indegerrimi e diversi dagli altri, e poi succede quello che è successo a Torino, ma più ancora quello che è successo a Roma, con la Raggi, con quelle nomine che ha fatto e tutto quello che è successo. Ma non apriamo adesso, perché non c'è tempo al fronte più politico, che altro perché è un altro caso ancora, e dovremmo metterci anche su quello a fare distinguo, e non però, riusciamo più. Io vorrei essere però rappresentato da qualcuno che sia un po' meglio di me. Vorrei, questa sarebbe la mia attenzione ideale, qualcuno che sia un pochino meglio della media. Purtroppo non è così, mi sembra. Questa tua teoria è interessante, Leo, smonta tutta la tesi del biondo lì, perché in realtà lui dice che dobbiamo essere tutti... dove sono scelti? Mica da Marte, sono scelti tra i cittadini. Certo, fra i cittadini, ma io vorrei scegliere qualcuno che insomma possa rappresentarmi, possa rappresentarmi nel mio essere migliore, diciamo così. Se non sei migliore di me, ci devi diventare nel momento in cui ricopri una carica pubblica. Questo dovrebbe essere il discorso. Io dico sì, ci devi diventare, paghi se sbagli, però non è che lo diventi in quanto personaggio pubblico. Comunque dai, è il momento del funambolo del giorno, la discussione rimane aperta, il funambolo, anzi la funambola del giorno. Nome: Viola. Cognome: Brambilla. Età: 21 anni. Flautista di professione, Viola è membro dell'orchestra giovanile dell'Unione Europea. E tra l'altro Viola, credo uno dei tre italiani, esatto, dell'orchestra. Buongiorno intanto, sì. Viola. Buongiorno, sì, uno dei tre. Potere della Brexit, altro che l'agenzia del farmaco, altro che tutto quello che può andare via da Londra, le banche. No, invece va via da Londra l'orchestra dell'Unione Europea. È così? È così, è proprio così. E cioè, dove andate? Verrà spostata qui in Italia, a Ferrara. Per una volta, vedi, una buona notizia, venite qui. Sì, una buonissima notizia per noi italiani. Sei contenta di tornare in Italia? Molto, molto. Diciamo che è una piccola cosa che però ci fa tanto onore ospitare questa grande istituzione come l'Orchestra Giovanile Europea. Si è fatto prima spostare l'orchestra che non l'agenzia del farmaco, mi sembra. Vuol dire che muovete pochi soldi. È il solito Leonardo Manera che deve insegnare. No, spieghiamolo, insomma, l'orchestra dell'Unione Europea, che aveva sede a Londra, verrà spostata a Ferrara al Teatro Abbado. Tra l'altro da un'idea del maestro Claudio Abbado nasce proprio questa orchestra. Esatto. È un qualcosa che ci rende orgogliosi, no? Assolutamente sì. Anche perché questa orchestra, sostanzialmente, tu dici che può essere quasi un modello di quella che sarà l'Europa, di quello che dovrebbe essere la rappresentazione proprio dell'Europa che verrà. Assolutamente sì, perché siamo tutti giovani musicisti che collaborano assieme senza nessun tipo di problema. E diciamo quello che trasmettiamo è, diciamo, un'unione che è il simbolo della nostra unione in Europa, diciamo. Come si entra nell'orchestra dell'Unione Europea? Sei flautista, ricordiamo. Io sono flautista, sì. Ogni paese decide una sede dove effettuare le audizioni, che vengono appunto fatte ogni anno, e tramite queste audizioni, fase, prima fase e poi fase finale, diciamo si ha... C'è una selezione, beh, una selezione. Una, sì, sì. Quanti siete? In orchestra? Sì. In orchestra circa 100-120, dipende dall'organico. Ah. Beh, Viola, secondo te anche nel vostro settore ci sono raccomandazioni o è difficile dovendo dimostrare una capacità, diciamo, nel suonare? Io penso sì che nel nostro settore ci siano raccomandazioni, però ovviamente, come diceva una mia cara amica, se ci sono tre posti, due sono per raccomandati e uno è per merito. Accidenti. Quindi, però il livello di preparazione immagino che sia alto, perché uno non è che può millantare di suonare, di saper suonare uno strumento. Comunque saper suonare lo strumento, perché sennò... Certo. Arrivano certo, raccomandati col flauto dolce tipo a scuole medie? No, per fortuna no, siamo presi un po' in giro per questa storia del flauto dolce, ma siamo un altro flauto, diciamo. No, ma è chiaro. Traverso, certo. Ovviamente. Ricordo sempre a tutti, alle domande di Leonardo Manera si può anche decidere di non rispondere. Questo lo dico per Viola. In assenza del vostro avvocato, poi se c'è l'avvocato, sì. No, ma che tipo di concerti fate? Dove? Raccontaci un po' quest'orchestra, quando allora, è nata. Allora, i fa? Nostri concerti di quest'anno, cioè del 2017, sono stati in Austria. Poi abbiamo fatto un tour Estonia, Lettonia, Lituania e Italia. Wow. Quindi infine siamo venuti qua in Italia a Bolzano, al Bolzano Festival, che è un nostro partner, e abbiamo appunto suonato, fatto dei concerti al Teatro Comunale. Ma voi siete sempre tutti insieme? Cioè, è come se fosse un grande Erasmus praticamente. Allora, un grande Erasmus, ma solo quando noi andiamo in tour, nel senso che finito il tour ognuno torna a casa propria, al proprio conservatorio, al proprio studio, quindi viviamo insieme ma fino alla fine del tour, cioè fino il tour può durare tour, da un mese a un mese e mezzo, a due, dipende sempre dall'anno e dai posti poi. Comunque insomma la notizia di fatto è molto bella, cioè l'Italia conquista grazie alla Brexit l'orchestra dell'Unione Europea. Non saranno molto felici forse i membri dell'orchestra inglesi, ecco. Quello è l'aspetto molto triste, che leggevo che i musicisti inglesi sono tristissimi, che hanno messo delle foto profilo con le due bandiere, quelle europee e quelle inglesi insieme. Sì, loro si proclamano parte dell'orchestra, ovviamente, anche se diciamo che dovranno lasciare presto i loro posti. Comunque è così, non si può fare nulla per questa cosa. No, attenzione, no, spiega, perché non l'ho capito. Devono proprio lasciare i posti perché in quanto Brexit non sono più considerati cittadini che possono fare europea. Cioè sono musicisti, esatto, che non... Per questo è tristissimo. Sì, non possono neanche più, diciamo, fare la selezione, fare l'audizione per questa orchestra. È una cosa proprio che è tagliata, cioè loro sono tagliati fuori, dalla possibilità di partecipare. No, ma io pensavo e dicevo, la domanda era su coloro che dovranno vivere a Ferrara, cioè coloro che invece erano a Londra, città magari un po' più multiculturale, un po' più internazionale, e dovranno vivere a Ferrara. Ecco, però per dei periodi, credo di aver capito, no? Sì. C'è il pan pepato a Ferrara. Sì, esattamente, per dei periodi. Per Manera c'è il pan pepato. Quindi, essendoci il pan pepato, uno vive per il pan pepato. Viva Ferrara! Si va anche molto in biciclette, risolto. La città con il maggior numero di biciclette. Città meravigliosa. C'è il pan pepato. Viola, ma l'età media è la tua? Sono tutti... diciamo che io sono una delle più giovani, perché fino ai 26 anni, quindi fino ai 26. Sì, quindi diciamo l'età media può essere già dai 23-24, comunque sì, diciamo da sopra i 20 e sotto i 26. Beh, molto bello però, perché è proprio bello. Una delle immagini dell'Unione Europea che vorremmo che fosse, no? Giovani tutti insieme mischiati a fare una cosa bella, è molto molto bello. Viola Brambilla, noi ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo, flautista. Prego. Di professione, fa parte dell'orchestra giovanile dell'Unione Europea e che verrà trasferita presto a Ferrara. Quando? Cioè c'è una data, giusto per concludere, di questo trasferimento? Credo dal marzo dell'anno prossimo. Dal marzo dell'anno prossimo. Quindi. Allora, verremo a sentirvi, a farci una bella buffata di pane pepato. Il pan pepato, il pan pepato è ottimo. Manera viene per quello. Allora, da una giovane funambola, Viola Brambilla, passeremo tra poco poco dopo il traffico a un altro furbone, giovane. No? No, no, no, un vecchio furbacchione, no, non diamo la parola maniera. No, c'è un altro giovane, perché la notizia è che il CIO, cioè il Comitato Olimpico Internazionale, ha messo i videogiochi come sport olimpico. Cioè, avete capito, i videogiochi. Tu manco sai cos'è il subbuteo. No, hai capito, non bastavano i miei problemi. Stavo dicendo, non è mosso, perché adesso i bambini avranno l'alibi, no? Sì, con esatto. I genitori. Papà, voglio andare alle Olimpiadi. Papà, voglio diventare un campione. Se avessi fatto il calciatore avresti detto qualcosa, no? E allora? Esatto, dammi l'iPad che punto alle Olimpiadi. Mi diranno così. No, dopo il traffico cercheremo di spiegare tutto con un prossimo funambolo. OneExpress.it. Pallet Network italiano che viaggia in Europa vi presenta i funamboli. Allora, il Comitato Olimpico ha stabilito che i videogiochi sono sostanzialmente da considerare discipline agonistiche vere e proprie, ovviamente. Dovranno... Tra l'altro, perché dicevano che i battiti del cuore arrivano a un numero di pulsazioni simili a quelle che si ottengono facendo attività sportiva, 150 al minuto. Capito. Cioè, adesso... mi stai dicendo che si consumano calorie? No, quello... Capito, ma non è che quello è il criterio. Cerchiamo di fare discorsi seri. No, scusate, non è che quello è il criterio, perché adesso non è che... È anche fare... uno dei criteri. Anche fare l'amore allora sale a 150. Cioè, 50, però anche non... quella è disciplina stai olimpica. Buono, stai buono, no, no, non parliamo di cose più grandi di noi, no? Dai, su. Allora, però ovviamente queste discipline ora dovranno rispettare tutte le regole del olimpiche, quindi il doping, i valori olimpici, la repressione delle scommesse, eccetera. Però noi abbiamo chiamato un grande campione di questa specialità a questo punto, Mattia Guarracino, che è con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Nome d'arte o nome? Lone Wolf. Lone Wolf. Cioè il lupo, lupo solitario. Assolutamente sì, però in realtà di solitario c'è ben poco. Mattia Guarracino, intanto anni? 25. E da quanto gioca? A livello competitivo ho iniziato nel 2006, ecco. Quindi ho iniziato il mio primo torneo quando avevo 14 anni, però invece proprio a videogiocare da quando avevo 4-5 anni con il Super Nintendo, così. Lo vedi? Lo vedi? Si comincia presto, quindi sì, sì. No, bambini di tutto il mondo! Mi incuriosisce che vuol dire a livello competitivo, è un mondo che faccio fatica a conoscere, quindi aiutaci un po'. Certo, con tornei proprio contro altri giocatori in giro per tutto il mondo, in tutta Italia. Io sono stato sia in Corea alle Olimpiadi dei videogiochi, sono stato in America, quindi diciamo che ho girato un po' il mondo facendo questi tornei ed eventi. Ma tu giochi per la Sampdoria? Da gennaio sì, ho firmato la letta Sampdoria. Sulla scaletta e l'ha detta, no. Così tu non gioca per la Sampdoria, sì, certo. La Sampdoria sì, cioè gioca, nel senso, no, che la Sampdoria vedi sei grossolano, tu chi giochi non per la Sampdoria si sembra bene. Sembra che domenica va in campo nel derby con il Genoa, rewind è proprio così. Tu videogiochi per la Sampdoria, esatto? Esattamente. E cioè che vuol dire? Allora, tantissime squadre da un anno a questa parte hanno aperto una sezione e-sport proprio con tutti i videogiocatori di FIFA, ma anche altri videogiochi in realtà, però dato che FIFA è un videogioco di calcio, è molto più facile comunque avvicinare le persone a questo settore. Quindi la prima squadra italiana è stata proprio la Sampdoria, col presidente Ferrero che gli abbiamo presentato questo progetto. È stato molto lungimirante, perché ha capito subito, insomma, quanto movimento potesse portare questa disciplina. E da lì poi è iniziato, ci sono stati anche i campionati contro le altre squadre, ogni tanto ci sfidiamo anche in Italia. Però tu, scegliendoti la Sampdoria, non sei sfavorito rispetto ad altri giocatori che hanno squadre più forti? Perché per esempio a FIFA, vedo anche giocando con mio figlio, comunque ci sono dei valori diversi, no? Se io faccio Sampdoria contro la Juventus è più forte anche nel videogioco, non è così a livello, diciamo, competitivo? Per superare, diciamo, questo problema ci sono diverse modalità, una tra queste è la modalità 85. E praticamente tutti i giocatori hanno i valori 85, quindi dal più scarso che possa esistere a quello più forte del mondo hanno gli stessi valori. No, ma io poi videogiocare cosa significa? Cioè, la Sandora ti ha chiamato per fare esattamente che cosa? Cerca di spiegarcelo. Cioè, allora, tu videogiochi delle partite. No, cerchiamo di essere basici perché io non capisco niente. Delle partite di pallone, videogiochi? Cerchiamo proprio di andare al terra. Stai parlando con Veronica Gentili, che cioè, se le chiedi di dov'è la SPAL, Veronica, la SPAL. Ancora, te l'ho detto, ce l'ho sotto al collo. Ferrara, dai, abbiamo parlato di Ferrara. Ferrara c'è il Pampepato. Pampepato, SPAL. Torniamo a Mattia. Ok, ce la faccio. Io, guarda, anche con la Sampdoria ho avuto problemi poco fa e ho taciuto, quindi vi prego. Mattia, esattamente cosa fai quando dici videogioco per la Sampdoria? Allora, ci sono da sempre un anno a questa parte tantissimi eventi e tornei organizzati soltanto per i club, quindi si fanno praticamente questi tornei all'interno degli stadi, tipo Luigi Ferraris, no? E abbiamo fatto un torneo lì all'interno contro Ajax, Sporting Lisbona, quindi vengono proprio i rappresentanti delle altre squadre e si fanno questi tornei. C'è anche a livello mondiale, abbiamo fatto il mondiale per club a Londra ad agosto. E come va la Sampdoria? Vinci? Non è andato malissimo, però siamo arrivati tra i primi 8 al mondo per club. Può succedere solo con i videogiochi. No, mi perdonino i tifosi della Sampdoria. Ma come ti permetti? No, queste mancanze di rispetto. E io non posso neanche fare delle vere intemerate perché non so di cosa si parla. Quindi è una tragedia questa. Nelle vostre gare ci sono anche giocatrici femminili o un ambiente esclusivamente maschile? Un po' amaro anche. Tutti uomini. Per quanto riguarda FIFA, difficilmente, cioè ce ne sono molto poche, però per altri videogiochi tipo Call of Duty ci sono tante ragazze. Perché hai scelto proprio FIFA quindi? Perché io hai quella passione del calcio. La passione del calcio, dei videogiochi ho praticamente unito le due cose. Però la notizia fondamentale, la notizia da cui siamo partiti, Mattia Guaracino, è questo: il CIO ha deciso di includere questo negli sport olimpici. Intanto da quando potrebbe capitare? Perché poi ci sarà tutta un'altra fila, non credo dalle prossime Olimpiadi. E poi, non lo so, ci pensi andare alle Olimpiadi? È una cosa che un po' mi stranisce, cioè capire che c'è Usain Bolt, vabbè, non c'è più, e c'è anche però la specialità dei videogiochi. Vabbè, diciamo che questo è un po' un paragone come Usain Bolt e chi tira con il tiro con l'arco, insomma. Quindi no, più o vabbè, meno... però dai. Non è la stessa preparazione atletica, insomma, anche in quel caso. Perdonami, scusami, c'è bisogno anche di una preparazione atletica? No, allora no, sicuramente... No, è una domanda seria, io scusami, rido per me stessa, non per te. Volevo capire se c'è bisogno veramente di allenarsi, perché prima ci diceva Leonardo Manera, non so se sia vero, che il battito cardiaco sale moltissimo. È vero? Sicuramente c'è bisogno di una preparazione atletica, ma non in maniera esagerata. Sicuramente la preparazione deve essere molto mentale, perché sulla precisione, sullo stress, comunque nella durata molto limitata delle partite, perché tutto nell'arco di 12-15 minuti e devi sfruttare molte più occasioni possibili. Ma non c'è dubbio questo, ma appunto quando succederà e come avete accolto nel mondo, insomma, dei videogamers il fatto che il CIO abbia aperto così? Come l'abbiamo accolta noi la cosa? Sì. Guarda, in realtà per me cioè, è una cosa molto bella, perché comunque apre molte altre strade anche dal punto di vista lavorativo per i ragazzi. Tu quante ore giochi ogni giorno? Prima di un evento importante 4-5 ore, altrimenti quando non ci sono proprio tornei e tutto 2-3 ore al giorno. Avverti che qualcuno possa avere una sorta di dipendenza da videogioco? Ti è mai capitato di conoscere persone che hanno questo problema? In realtà no, però credo che come qualsiasi cosa, se si fa troppo abuso è ovvio che fa male. Ma tu ambisci ad arrivare al cachet di Donnarumma? Questo ho capito, sì, no? Era facile. Beh ragazzi, se si evolve in questo senso la faccenda ai giocatori più talentosi. Però ci saranno dei premi, ci saranno, cioè, per chi vince le Olimpiadi, come ci hai detto. Ma già esistono montepremi di oltre $1 milione. Vedi, e tu ridi sempre quando non devi ridere, sciocchina. No. È una cosa serissima, gioca tu, voglio vedere. Per di più in Corea già dal 2011, ma parlo forse di qualche anno prima, già i videogiocatori professionisti prendevano più di 200-300 mila euro annui. Bello. Vedi? Quindi c'è il pubblico, il tifo, è proprio come se fosse una riproduzione di una partita, in questo caso di calcio o di altri sport. Ma il paese in cui ci sono più appassionati qual è? Sarà appunto l'Asia, Corea, eccetera, no? Ma anche gli Stati Uniti riescono a riempire proprio interi stadi. Vabbè, ma quando vedremo alle Olimpiadi questo tipo di sport considerato? Io tale? Io credo, ovviamente come dicevi prima, c'è tutto una, la trafila da fare. Una trafila da fare, però probabilmente nel 2024 in Francia. Perché loro già hanno già una sorta di regolamentazione e tutto, hanno pure il campionato parallelo in Francia, cioè praticamente prima delle partite si giocano i match delle squadre, stessa cosa capita in Olanda. Certo, insomma 2024 Francia, chi lo sa, potremmo avere alle Olimpiadi anche, ma la specialità come verrà definita? Video, come c'è un nome? Ma questo è ancora... Che poi voglio dire, ci sono tantissimi videogiochi, quindi che cosa si sceglierà come penso gioco? Che si andrà sui giochi più classici, cioè nel senso quelli che fanno un pochino... Calcio sicuramente, poi c'è League of Legends che... è praticamente il gioco più videogiocato in tutto il mondo. Com'è? League of Legends, che è un gioco videogioco strategico. Sì, ma di guerre, di posizionamenti, di battaglie. Che era come gli piace. Diciamo è strategia, cioè bisogna riuscire ad entrare nella base avversaria, però non è guerra tipo, che ne so, Call of Duty, che uno spara tutto, ma qui hai anche mosse di magia. Bello. Ma coi giocatori, quelli in carne ed ossa, no? Quelli analogici, ci giocano con te? Sì, giocano insieme a me in coppia. Ma cioè, dai, per batterti in due? Cioè, nel senso perché in due. No, nel senso che vogliono giocare in coppia con me. Ah, in coppia. Ah, giocano tu e un giocatore fantastico. Tu e lui contro gli altri, va chiaro. Bene. Mattia Lone Wolf 92 Guarracino, ti ringraziamo tantissimo. Magari grazie, ti vedremo alle Olimpiadi in Francia, chi lo sa. Chi può dirlo? Noi siamo molto fiduciosi. In bocca al lupo, ovviamente, grazie, al lupo solitario, Lone Wolf. Grazie. Andiamo da Franco da Ancona. Buongiorno Franco. Buongiorno. No? Eccoci. Oh, che bella voce, Franco. Leonardo. Per carità. Io volevo intervenire sulla questione delle multe. Per una testimonianza tutto sommato abbastanza breve, nel senso che io nei primi anni 80 ero assessore alla polizia urbana e traffico del comune d'Ancona. Sì. E in quel periodo ho preso una multa per io personalmente per divieto di sosta. Noi allora, io ero di un partito che faceva della questione morale un punto fermo, un punto. Beh, ce lo dica a questo orgoglio, punto. Qual era questo partito? Ce lo dica al partito, Franco. La mia segretaria. Che tra l'altro non era del mio stesso partito. Franco, ma mi sente? Franco, ci Franco? Niente. Franco, di no. Se ci sente, ci dica il partito, che così. Era lei. E l'ho lasciata. Non ho Franco, mi perdoni. Abbiamo perso così. Come avevo molto da fare, ovviamente. Franco, ci sente? Franco! Di andarmi a pagare la multa. Ci è meravigliata in maniera incredibile. Ma assessore, ma parlo con i carabinieri, lei gliela voleva togliere, Franco, però perché non ci sente? Stiamo cercando di interloquire. Pronto? Sì, stiamo cercando di interloquire, ci senta, ci ascolti. No, ma non ci sente. No, Franco, adesso ci sente. Vi sento molto male. Sì, adesso ci sente. Allora, la segretaria ha detto, ma come un assessore che paga? Ci vuol dire il partito di cui faceva parte? Visto sì, che... era il Partito Comunista. Quindi lei l'ha pagata alla fine. Ti ricordi che nell'84 Berlinguer faceva della questione morale. Una questione morale. Come no? Un elemento di fondo della cosa. Poi dopo nel 90 si è visto. Ma l'ha pagata poi questa multa? Si è vista poi. Comunque, la questione morale dopo. Al di là di questo, io poi naturalmente ho pagato la multa. E comunque la cosa... nell'ambito dell'assessorato fece un po' scalpore. Va bene, fece scalpore. Si fermi qui, Franco, anche perché se interlochiamo adesso magari facciamo fatica a risentirci. Andiamo un attimo in pubblicità e a sentire la borsa. Poi ci sono altri ascoltatori. Il tema dei furbetti ce lo trasciniamo per almeno altri 4-5 anni. Ma d'altronde è così. Noi, tra l'altro, tra poco avremo un defurbizzato. Quindi, il Partito Comunista va. Delle nostalgie per il Partito Comunista. Andiamo alla borsa. Allora ascolta bene la borsa. Apri le orecchie e ascolta la borsa. Il capitalismo, ascolta la borsa. I funamboli. I 5 Stelle comunque l'hanno licenziato e lui si è dimesso. gli altri partiti se li tengono. Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? Eccoci qui, le 10:38 minuti. Ho come la sensazione che questo ascoltatore fosse un elettore del Movimento 5 Stelle, non so perché però. Ma sì, ma poi guarda, io quando lo, poi la si butta in politica, ma chi se ne frega di... Cioè, vabbè, adesso è difficile metterla così, Ale, nel senso che stiamo parlando di una cosa politica. Queste sono state delle dimissioni comunque di un gruppo specifico, sono state anche strumentalizzate da tutto il resto della politica. È un po' difficile non buttarla in politica. Ecco, io sono diverso, lo sai. Io sono tu, a me non me ne frega niente. Tu di sei buttare diverso. Tutto in politica, non me ne frega niente. Ma se tratti questo argomento, se parlassimo di come si fanno i ravioli con la zucca, magari ma no. È giusto che l'ascoltatore e faccia la propria considerazione. A me che sia, io non vorrei neanche sapere di che partito è, non mi interessa, mi interessava il caso. Comunque, è il momento... Ma tu non ci hai detto la tua, secondo te è giusto che si sia dimesso o no? Ma sì, certo che è giusto che sia dimesso, perché quando vieni beccato e hai un posto pubblico, poi, come dire, devi pagare, ecco, non, mi sembra abbastanza evidente. Tu ti saresti dimesso? Ma certo, ma è chiaro, se sei in quella situazione devi poi dimetterti, è abbastanza chiaro, devi pagare visto che hai violato la fiducia, insomma, nel rapporto con le persone, col mi pubblico. Piace farti le domande, mi sa che adesso comincio a fartele sempre tipo piccoli interrogatori, mi piace tantissimo. Però sono un amoralizzatore, non giudico nessuno, perché dico, se si andasse a scoprire tutte le intercettazioni, chissà quanti nella sua posizione hanno fatto la stessa cosa. Ecco, beh, sì, resta il fatto che lui comunque è un amministratore pubblico. È chiaro, insomma. Chi viene pescato ovviamente paga per tutti quelli che non vengono pescati. Comunque, c'è appunto un nostro furbetto, eh? È il momento della verità, è dalle 9 che stiamo defurbizzando un po'. Siamo tornati a casa, ma oggi è stato veramente il fil rouge di tutta la puntata. Così siamo partiti e così chiudiamo. Esatto, eh? Ma Ruggero, buongiorno Ruggero. Buongiorno a tutti voi. È uno della rubrica defurbizzando. Diamoci, che hai combinato tu, Ruggero? Ho fatto una carognata di quelle. Eccoci. Ma dai, poca carognata. Cosa, dai, non è, cioè? Così grave. Però premetto che mi sono pentito, Va bene. Premetto non che c'è mi bisogno sono che tu allora lo dica, perché sappiamo che non è vero. Quindi. Dopo tutte queste scusazio non petite, la vediamo brutta, ma molto brutta. No, è piccola cosa. Piccola cosa, allora, vediamo. In teoria ero lì al supermercato, sa quando c'è stato il cambio lira-euro, no? Come noi, sì, ricordiamo. Erano in vigore le 500 lire allora, molto simili alla 2 euro, no? Ed ero lì al supermercato, avevo inserito la 500 lire da allora per prelevare il carrello. Era una serata di quelle del sabato sera, che c'era una calca di gente che... C'era, che dico, i sottocosti nel centro commerciale, e tutti alla ricerca del carrello. Allora la signora dice: me lo dà, dico vabbè, prenda. Ha messo la 2 euro, sì, la 2 euro. E mi sono preso la 2 euro, gli ho lasciato la 500 lire dentro. Ma questo è un classico, lo fanno tutti anche adesso, quelli che mettono i gettoni. Ah, lo fanno tutti anche adesso, sì, che mi dai una notizia che non sapevo. Devi stare attento al carrello, se tu metti 2 euro, c'è quello che te lo scambia con quello che ha messo un gettone, per esempio il gettone di plastica, no? Che vendo. No, ma poi la cosa non è finita lì, perché poi mi è piaciuta la cosa e ho continuato a farla. Business. No, io una volta, dico, a fare la spesa ho messo 2 euro, poi dopo un po' guardo il carrello e mi sono trovato il carrello con il gettone Ruggero di plastica. Ma quindi per lei tu sei il gabbato, sono il gabbato, Ruggero, il gabbato. Per lei il passaggio lira-euro è stato positivo in questo senso. Quindi lei non tornerebbe mai alla lira. C'è chi ne ha dato dei vantaggi. Assolutamente Ruggero non abbandonerebbe mai l'euro. È mai. Nei momenti di crisi che si riconoscono le vere intelligenze, capito? Ecco. Ne vuole sapere un'altra di carognata? Vabbè, ma Ruggero, ma lei... praticamente c'è una sorta di album, l'album delle carognate. Vabbè, lei è una carogna, Ruggero. Ma... No, ma no. Insomma, non si parla così con gli ascoltatori. No, ma sono pentito, l'ho premesso, certo, prima. Sì, ho capito. Si sente è un pentimento vero questo. Cioè? Vero. Allora, le spiego, ero lì dovevo prendere, sa, delle macchinette per le sigarette, ai tempi fumavo, adesso non più da anni. Ero lì e c'era un signore che stava stava prendendo le sigarette, aveva messo le monete. All'epoca costavano 3,20 euro, 3,30 euro le 1000 sigarette che fumavo io. Questo signore davanti, insomma, inserisce le monete, prende le sigarette, però la macchina non dava il resto perché era guasta. Di solito rilascia uno scontrino che poi il giorno dopo uno va a farsi rimborsare, sì, dal tabaccaio. In questo caso lasciava un credito lì sul display di quello che non aveva. Vedevo questo signore che malmenava la macchinetta, che voleva per forza. E lei lo vedeva il credito? E io il credito però lo vedevo. Muto, però zitto. Muto. Allora che faccio? Lui va via. Lui va via, no? Io appena va via dico, ha lasciato un credito di 1,70 euro. Oh, quindi se io inserisco ancora per arrire a 3,20 euro, 1,50 euro mi prendo le sigarette. Inserisco 1,50 euro, prendo le sigarette e vado via. Poi vedo che dopo di me va un altro signore e inserisce la 5 euro di cassa. E anche lui lascia. Dico, vuoi vedere che mi apposto lì, nei paraggi, in macchina, e sto a guardare la scena. E vedo che questo signore, anche lui, calci, pugni, il resto che non arriva. Dico, caccio, scusate il termine. Problema ormai. Non si accorgono che... Sfrutto la situazione. Alla fine mi sono portato via 18 pacchetti di sigarette. Non ci posso credere. Perché tutti non si accorgevano del resto. A metà prezzo. Vabbè, Ruggero, Ruggero, una patente. Damogliela comunque, no, la patente. Dici, ma non so se dargliela. No. Defurbizzato. Questa patente viene data proprio così, a porci e cani, non si può fare. Sì, no, dai, glielo diamo anche a Ruggero. Dai, dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico tra un attimo. Vediamo prima se c'è una scuola. Ascoltatore Marco da Napoli. Marco, buongiorno, la linea 5. Buongiorno dottor Milan. Eccoci. Buongiorno a tutti voi e buon lavoro. Bene, grazie. Dunque, sembrava la conclusione di una telefonata. Ciao. Invece ci deve ancora dire, dica Marco. La sento da anni. Sì. Ascolti, io ho per fortuna 3 figli, 2 donne e un maschio, tutti e 3 vigili urbani. Sì. E tutti ovviamente vengono a chiedermi di intervenire. Le racconto un semplice aneddoto. Il pianerottolo di fronte bussa, ho avuto una multa a mia moglie. Posso fare questo intervento? Mia moglie chiude la porta e lo fa girare. Dietro la porta ci sono tutte le multe pagate dalla mamma e pagate da me. Dici, guarda come fanno i miei figli. Appena arriva una multa non devo neanche parlare, la devo pagare. E via. Quindi lei dice, pagando noi non chiedetemi favori, perché... Non chiedetemi favori, siamo i primi. Fino anche lei, la stessa figlia domenica scorsa ha preso una multa perché le ho lasciato la macchina, ha detto mamma hai preso una multa però l'ho già pagata. Vigile urbana l'ha pagata. Vedete che si può fare se Marco si vuole. Ci ripeta di dov'è lei? Napoli. Sono di Napoli. E sfatiamo una volta per sempre i luoghi comuni. Quante richieste riceve mensilmente di annullamento multe? 5-6, perché 5-6. Ne sono 3. Mi fermano per la strada. Mi continuamente me lo dico. Ormai si è fatto la reputazione di quello che non lo fa, quindi un po' avranno rinunciato in corsa, lo sanno, no? Sì, hanno rinunciato. Io ho pagato multe da 260 euro senza neanche dirglielo. Ha fatto bene Marco, veramente. Andiamo a sentire allora il traffico e poi rientriamo, grazie. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta i funamboli. Ragazzi, questa volta devo proprio dar ragione a De Luca. Fatevi visitare, ma da uno bravo, ma bravo bravo però, Cioè perché De Luca con che i giornalisti? Fatto? No, ma non lo so, va bene, ma va bene così. Non so, forse si riferiva a Leonardo Manera, Leonardo. Non conosco Leonardo Manera, buongiorno. Ah, non c'è Leonardo, infatti. Oh! È professor Jensen. Saluto. Professore, che piacere sentirla. Saluto Milan e anche a Gentili. Oh, che salve. Psicologo, perché non mi conosci, psicologo. Sì, dottor Patrick Jan. Ho fondato questo nuovo metodo di psicologia che è di stare bene, fare cose che fanno stare bene, fare bene. E voglio dare consigli pratici per stare bene. Per esempio, quando in famiglia nasce un bambino piccolo, crea tensioni, difficoltà, non si dorme. Allora diamo consigli pratici. Per esempio, cosa fare quando un bambino piange e non dorme, e non fa dormire anche? Ecco, in quel caso si abbraccia bambino e si mette bambino a dormire in stanza più lontana, o anche su pianerotolo. Oh, ma fa freddo sul pianerotolo, abbandono! Come? Voi sentite lo stesso che bambino piange, ma è più lontano, riuscite a dormire meglio. Sì, questo è vero tecnicamente, però ma dai, con bambino su pianerotolo che puoi piange provare? No, se bambino piange su pianerotolo, sì, vi vendicate anche di vostro vicino, vicino di casa, che per tanto tempo ha fatto schiamazzi e non vi ha fatto riposare. Così utilizzate vostro figlio per vendicarvi di schiamazzi di vostro vicino di casa. C'era questa storia degli schiamazzi, e quindi in questo modo comprendete che vostro figlio non rappresenta solo una fatica, un impegno, ma anche un'opportunità per ricambiare schiamazzi. Perché schiamazzare contro il vostro vicino di casa crea soddisfazione. Fa stare bene. Fa stare bene. Fa stare bene. Ho anche scritto libro, Potere magico di schiamazzo. Poi cosa fare quando figlio non vuole mangiare papà e le fa disparare? Il papà mangia? No, pappa. Tanti bambini non vuole mangiare a pranzo, a cena, papà, no? Pappa. E fa disperare i genitori. Se vostro figlio non vuole mangiare papa, non obbligate vostro figlio a mangiare papa. Giusto. Utilizzate tempo che vostro figlio non vuole mangiare papa per mangiare voi in tutta calma un primo, un antipasto, una frutta, una crema caramella. Beh, però. E se vostro figlio piange mentre voi mangiate, abbracciate vostro figlio e mettetelo su pianerotto. Prima abbracciamo però. Sì, sì, con un abbraccio. Tranquillo. Caro figliuolo, ti porto a vedere un angolo appena fuori casa che... Fino a quando voi avete finito di mangiare. Dopo vedete che vostro figlio comunque viene fame, è istinto di sopravvivenza. Non ti creare sensi di colpa. Tu mangia tua papa, poi lascia un po' di papa anche per tuo figlio piccolo. Macaroni, spazzatino. No. Ah, spazzatino anche. Crema caramella. No, 8 mesi di macaroni. Se tuo figlio ha fame, mangia. Se non ha fame vuol dire che fa capricci e non ti fa stare bene. Tu invece devi stare bene. Bene. E poi altro problema che c'è in coppia. Cosa fare quando vostra moglie uomini si lamenta per stanchezza? Ecco, in questo caso, uomini, abbracciate vostra moglie. Pianerotto. No, e uscite voi a fare un giro. Andate fuori casa, contattate vecchie fidanzate, che magari salta fuori anche il rapporto occasionale. Che fa stare bene. Fa stare bene lui, no? Ho scritto un libro che si intitola Potere magico di rapporto occasionale. Ma che casa editrice! Ma anche per vostra moglie vale stessa cosa. Quando c'è figlio, perdona, è difficile fare amore tra marito e moglie. Sì. E allora, se voglio rimanere insieme marito e moglie, si deve fare amore con più persone possibili fuori da matrimonio. Tutte insieme? No. Ma naturalmente, perché tradimento fa stare bene, fa tornare voglia di vecchio partner. Io ho scritto un libro, si intitola Potere magico di rapporto occasionale fuori da matrimonio. Prima di quello degli schiamazzi o... E allora anche voi donne, quando vi sentite stanche, nauseate da vita familiare, buttatevi su letto, ma non da sole, insieme ad altri uomini che non è vostro marito, o anche più uomini contemporaneamente. Ecco. Ecco, seguite queste mie indicazioni. Io non ho capito tutto. E vedrete che queste mie indicazioni vi fa stare bene. Potete contattarmi nel mio studio anche di Carugate, vicino a Milano. Appunto, per contattare ha un sito internet. www.starebene. Punto, mi spiace un po' di questo mio accento, ma io è di, appunto, di no, ma noi dice sembra Papa Bergoglio. No, io è di Carugate, si parla così, vicino a Milano, ma ho vissuto tanti anni anche a Pioltello. E quindi mi è venuto questo accento. Pioltello è vicino a Milano, sempre più vicino a Milano. Ho capito, Pioltello. Quindi accento lombardo questo. È il mio accento naturale, quindi ricordiamo a tutti di stare bene, stare bene. Che è importante il stare vicino bene. Di casa suo come sta? Ma lui non sta tanto bene. mi sembra, secondo me se viene da lei come paziente può salvarsi. Il vicino di casa deve fare così. Ragazzi, allora, scusate, io devo andare perché c'ho il bambino sul pianerottolo. Signori, domani non saremo in diretta, ci sarà un meglio di Funamboli, ci prendiamo, ma ci se, nel senso un meglio di, quindi ci sono tanti altri argomenti, però non saremo in diretta perché staremo a casa a dormicchiare un giorno. A stare bene. A stare bene, a stare dolcetto bene. Dolcetto o scherzetto? Ma torniamo giovedì in diretta, ma domani c'è comunque il meglio di Funamboli, quindi state vabbè, sempre con noi. Gliel'hai detto adesso, l'Alzheimer, no? Dai, detto, controllati. Ciao.